4 mattino di Luca Telese. 8, 16 minuti, 43 secondi e voi siete entrati in questa atmosfera dolente, epica, un po' Morricone, un po' Bruce Springsteen, ed è una nuova star, Jack Savoretti, pensate, genovese, trapiantato a Londra, fra Italia e mondo anglosassone, è entrato due volte in classifica, è stato portato sul palco come ospite da un signore che si chiama Sir Paul McCartney. E allora ci serve lui, ci serve Savoretti con la sua classe, il suo tono, per entrare nell'ultima notizia che volevo offrire prima dei cani e dei gatti, la storia di questa madre inglese, poi dici delle mamme italiane, no? Ada Keating, quasi 100 anni, e sapete che cosa ha fatto? È andata in ospizio, ma per fare cosa a 100 anni? Per assistere il figlio ottantenne che non si è mai sposato nella vita e che accudisce con tanto amore, Ada Keating. E allora è magistrale introdurre questa giornata di oggi, perché parliamo del costume, della vita, di noi. Fai sentire quel fischio e introdurre il racconto del caffè di Gramellini. Solo la parte finale, ma merita. Il prolungamento della vita media ci ha trasformato in una generazione di pionieri, alle prese con situazioni inedite, commoventi, paradossali, nonni che mantengono i nipoti con i risparmi destinati ai figli, madri che non escono più dal ruolo come certe vecchie attrici che rinviano di continuo il ritiro dalle loro scene, e figli che rimangono tali per tutta la vita, costretti anche da pensionati a giustificarsi con la mamma per non aver messo la maglietta, il loro simbolo è un connazionale di Tom, quel principe Carlo che a forza di aspettare che la natura compia il suo corso sembra diventare ogni giorno più vecchio della sua inaffondabile genitrice. Allora, i cani e i gatti, vi diamo tutti i numeri oggi, tutte le coordinate. Abbiamo parlato delle banche, della Boschi, dell'America, abbiamo parlato di quello che sta accadendo in Europa con la Catalogna, abbiamo parlato della manovra. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre chiamate su quello che volete voi. Abbiamo parlato di questa incredibile intervista di Milan, lo ripeto perché poi avrete i funamboli. Mi chiamo Corrado, sono incinto, questo è il bambino che partorirò. Un'intervista esclusiva all'ermafrodito, sono solo 12 nel mondo, padre di 3 figli che si è autofecondato. Il numero per i vostri sms 349-238-6666, siamo attivi anche su Twitter, e lì, anche se non lo vedo da qualche parte, deve esserci la belva, il gattone. È la belvetta, piccolino. Che mi hai messo da parte, Oscar, stamattina? E ti ho presentato una cosa pazzesca, l'ermafrodito. Sì, ti ho presentato la nonna di 100 anni che però assiste il figlio. Lo sai che ci spartiamo in questo, nel senso che tu hai un occhio particolare per queste vicende, che sono vicende importanti perché descrivono l'evoluzione del costume, del carattere nazionale, per così dire. Io, ohimè, sono quello che poi invece fa i conti della serva, i conti della belva, e quindi alcune chicche della manovra. Io voglio sapere come la pensano i nostri ascoltatori. Chiamate all'800240024. Ogni giorno magari vi chiamiamo anche su un qualche pezzo della manovra, perché tanto ce la portiamo avanti fino a fine anno, come sai, Luca. Cioè, hai detto io mi occupo delle sciocchezze e tu delle cose importanti. No, al contrario, tu ti occupi del questo. È il contrario. Sopporto. Il contrario. Ma che sopporti? Tu ti occupi della cosa di cui parlano milioni di italiani. Io di ciò di cui parlo pochi. E tu della classe dirigente. No, ma quale classe dirigente? Io ho pochi, perché sono cose un po' complicate, rotto dei coglioni. Però insomma. Senti, ma quella notizia avrei visto nascosta meravigliosamente dal Corriere, che ogni tanto ha questa abilità. Cioè, nelle notizie grosse c'è un titolo su un'altra cosa. Fubini parla apparentemente di Padoan indispettito con Bruxelles, e dentro ci mette che la Boschi ha riscritto la norma sulle banche, da urlo questa, esatto, per alleggerire le pene nei confronti di sequestro, nei confronti di quelli che sono imputati di malgestione. Alleggeriamo. No, ma questa è una bomba mi atomica. Mi aspetto una smentita altrettanto ferma della famosa querela verso De Bortoli, che non ha mai fatto. Questa è cattiva. Però veramente. Com'è cattiva? La stiamo fatta, dicendo, no? La diciamo fra noi 1,5 milioni di persone che ci ascoltano, e non la diciamo a nessun altro. Non la diciamo a nessun altro. Comunque, cari ascoltatori, io oggi comincio a dirvi, ci sono 3 cose tra le tante che non mi vanno giù di questa legge di bilancio. La prima è che è retroattiva e ci levano la deducibilità degli interessi passivi dei dividendi esteri da quest'anno. Un altro esempio di come il legislatore ci tratta a calci nel sedere: se vi eravate fatto il conto, visto che siamo a novembre, col vostro commercialista, di metterli dentro nel vostro quadro RV, niente, levatelo perché non vale più. E questo significa che quella norma è durata 6 mesi nel nostro ordinamento, una roba veramente incredibile. Poi, a proposito del taglio delle tasse, di cui si riempiono la bocca, sappiate che l'IRI, che da 2 anni vi avevano promesso entrasse in vigore l'anno prossimo, bene, avete sbagliato a farvi i conti, piccoli imprenditori, con l'IRI, perché non entra in vigore, praticamente non entrerà in vigore mai, e lo Stato si becca, a proposito dei tagli delle tasse, 900 milioni in più. Poi, con l'obbligo di fatturazione tra privati, lo Stato si becca 2 miliardi in più. Vedete quanto è fantastico la diminuzione delle tasse in Italia? 3 miliardi in più con due sole voci, promessovi, e che invece non avvengono. Questa è la realtà di questa legge di bilancio. Sono pronto, naturalmente, a subire gli arresti politici dicendo che diminuiscono le tasse a Bruxelles, però basta Puigdemont vedere le cose concrete. No, però ti chiedo una cosa, perché entrambi, e qui dobbiamo fare un po' una finzione dialettica, entrambi siamo contro la politica dei bonus. Io ritengo incredibile che per dovergli spiegare il Corriere, il Sole oggi debba fare 6 pagine, che ti dà l'idea, no? Cioè, è una specie di corsa a ostacoli. Però non trovi che un po' di risorse siano state messe, per esempio lo sgravio per i di 3 anni per le tutele crescenti, 21 i bonus, di cui 8 nuovi, come no, un po' di risorse sono state messe col solito criterio a tempo, ovviamente a tempo, perché gli sgravi sono a tempo, mentre invece gli introiti maggiori sono permanenti. C'è questo piccolo particolare, la simmetria temporale dello Stato, però sono stati messi, sì, la logica è naturalmente quella a tempo e non strutturale. Come sai, i bonus non strutturale, secondo hanno... te il bonus è a tempo in una logica di teniamo il consenso, cioè dovete votarci perché così no, resterà la misura, oppure non... è un'altra logica? Ma no, l'altra logica è quella che, non avendo voglia di intervenire sulla spesa, e come vedi annullano le clausole automatiche di aumento delle accise e delle imposte indirette per l'anno prossimo, ma non riescono a farlo minimamente, resteranno 14 miliardi per il 2019, di cui si dovrà vedere, che poi però il prossimo saranno governo. Disinnescate saranno nel disinnescate. 2019, ma saranno disinnescate grazie a miracoli temporanei, a pecette. Per questo sono tutti interventi a tempo, e da anni e anni, perché lo scatto automatico delle entrate lo inventò nel 2011 la binata Berlusconi-Tremonti, ricordiamolo, ma da allora, fatta proprio anche dalla sinistra, è proprio l'espressione strutturale di una politica che è incapace di un disegno organico, cioè strutturale per tempo e con interventi universali che valgano per tutti. Si procede a pecette, ogni volta all'ultimo secondo, ogni volta dando la colpa all'Europa che ci ha dato 2,2 punti di PIL di maggior deficit nei 3 anni di Renzi, e ogni volta ovviamente manca un disegno complessivo, e quindi si dà tot a te, però me lo restituisci, però poi chi verrà dopo dovrà rifare la trattativa con te, e vai coi giardini. I giardini sono una priorità? Dimmi la verità, Luca, secondo te il bonus giardini io è una priorità o serve a io dare un contentino? Io vorrei un terrazzo per poter usufruire del 38% di riduzione sul bonus. Temo che il terrazzo, che bello che uno, cioè, improvvisamente più, vedremo salire, no, vasi, baldacchini. Che cosa scarichi col bonus giardini? Come cosa scarichi? Tutto, le piante, no? Metti il vasone, ti scarichi. Alcuni interranno il coniuge nel vaso e così via, cioè c'è tutta una molteplicità di finalità. Stavo scherzando, ovviamente, però era solo per dire che tra le tante cose ci sono, come sempre nella legge di bilancio, non solo quella preelettorale, delle cose discutibilissime. Le priorità, ti ricordi quando ci dicevano, ed era Padoan a dirci, Gentiloni, non lo spendaccione Renzi, le risorse concentrate su poche priorità. E ci sono sti 120 articoli, sono poche priorità? La risposta è no, si commenta da solo. Poi forse siamo ingenui a farla rilevare ai nostri ascoltatori, però a fine di perderla questa ingenuità si diventa sudditi. Questa è la mia impressione, e il tutto diventa sempre più un precipizio, perché si sfugge un disegno. Per fortuna, è vero, ci sono i bonus per le assunzioni, ma ti faccio riflettere su un'altra cosa, perché questo so che ti sta a cuore. Mi spieghi la coerenza tra un governo, sì, è cambiato la guida del governo, non è più Renzi ma Gentiloni, ma insomma è lo stesso governo come ispirazione politica, che fa tanto casino per cambiare l'articolo 18 sullo statuto dei lavoratori, per rendere flessibili e più economici i licenziamenti per ragioni economiche, e adesso raddoppia la tassa di licenziamento fino a 3.000 euro, di 2.940 euro. Ma che coerenza è? La coerenza di un ubriaco al bar. Cioè, o l'una o l'altra, no? Invece era no, annunciato, l'una e l'altra. No? Era annunciato, hai ragione che sembra un movimento non coerente, però il criterio è... siccome ti ho reso possibile il licenziamento anche senza giusta causa, anche per una qualunque funzione, me lo paghi di più. Ma sono spieghi, le cose all'italiana. Tanto valeva evitare tutto il casino precedente. 800 24 00 24 per intervenire, ma è anche una cosa da spendersi in campagna elettorale, cioè di dire: bravo, guardate, esatto, che abbiamo tutelato dai licenziamenti, li abbiamo resi possibili, ecco, però vi tuteliamo anche. Però li tassiamo. E il Manche, ti ricordi il mitico Manche Veltroniano? Sì, ma Veltroni, perdonami, adesso io non ero un fan veltroniano, però magari mi sbaglio, ma mi interessa di più su questo la tua osservazione, sei acuto più di me nell'osservare l'evoluzione dei leader della sinistra. Ma scusami, Veltroni nel suo Manche era meno, mi pare, spigolosamente per divoti di quanto non mi sembri negli ultimi tempi, cioè da dopo l'Europa in avanti, un bel po' che negli ultimi tempi, Renzi. Nel senso che a me il suo Manche suona sempre come: vabbè, vi concedo sta roba, ma io sono l'altro. Veltroni era un Manche che era: io sono sia l'uno, allora, che l'altro. Mi è venuta dal Manche al Maneanche. Ecco. Comunque è molto godibile, visto che stiamo facendo una rapida carrellata, il viaggio di Salvini in Sicilia, ed è stupendo vedere la cronaca del Corriere che dice: ma come, non avete l'acqua per 12 ore al giorno? E come fate? 9 ore di treno, eh? La littorina contro l'Eurostar. Sì, nel senso che l'ingenuità delle due lune: o uno crede davvero all'ingenuità e dice: ma dove eri vissuto fino a questo momento? Oppure è ben recitata, per così dire. Ma fa no, parte stupirebbe anche te immaginare che nella Sicilia di oggi per 12 ore restano senza no, acqua. No, stupisce anche me, perché ce ne occupiamo sistematicamente. Se poi uno non si vuole occupare di quanto è grave il gap, la distanza di pezzi d'Italia da altri pezzi, allora però non conosce l'Italia, perché l'Italia purtroppo, lo dico amaramente, 7 volte ho sottolineato amaramente, è questa cosa qua, ed è purtroppo doloroso che tanti la scoprano, ecco, per così dire, la scoprano facendo viaggio di Torino. Quindi io un po' non ci credo, ho l'obbligo di credere che Salvini lo sappia, e lì reciti la parte, come si dice, sdegnata, no? Del fatto: ah, qui bisogna cambiare tutto. Però quella è la realtà, e non riguarda mica solo la Sicilia. I buchi nella rete idrica ce ne siamo occupati sistematicamente dai tempi del referendum, e poi le risorse per tapparli, dopo la tanta retorica sull'acqua pubblica, non ci sono, e quindi restano, e ci vorrebbero più di 30 miliardi da investire che nessuno tira fuori. Eccoli qua, perché poi alla fine si resta senza acqua. Senza acqua. E sai quanto sono i milioni di italiani che vivono in comuni in cui non c'è il ciclo delle acque reflue, e alcuni, e parecchi, anzi, buttano ancora le fogne non filtrate in mare? Oimè! 18 milioni. Ecco, ma pensiamo, incrociamo con la notizia di ieri, quanti sanno quelli che vivono in un comune in cui si butta l'acqua e si paga anche il doppio di tariffa? Esatto. Quella è la domanda interessante. Mamma da fare. Mia. Allora, scarichiamo la pubblicità e poi torniamo con il direttore Molinari. Mattino. Allora, arriva un messaggio: Telese, ma cos'è questa storia di babbo sei obeso? Beh, vi devo dire, io sono prigioniero di una banda di criminali che ho qua di fronte, Luca, Antonella, tutti, Alessandro, si sono impadroniti di un audio messaggio augurale di mio figlio e lo stanno blobbando. Però vi devo anche dire una cosa che Oscar sa: questi figli quando crescono hanno uno strano paradosso, quando ti pizzicano ti stanno regalando una carezza, e quando ti insultano, io spero, riconoscono la tua autorità, almeno l'illusione, perché qua già preadolescente già mi contesta dalla mattina alla sera. Non posso dire con quale appellativo il mio figlio si è rivolto a me due giorni fa. A questo punto devi dirlo, a questo punto devi dirlo, prima che entri l'autorevolezza di Molinari devi dirmi come ti ha chiamato. Ma che ha usato una parola che inizia per S e finisce per O, io sono rimasto ammutolito. Perché ho detto in quel te momento sarà no, una maniera. Ma questo per... è un grande. Aspetta, no, ma dobbiamo aspetta. Festeggiarlo. Il no, figlio Giannino ha detto stronzo. No, a padre, no, è un no, processo non creativo. Si dice, non si dice. Però io in quel momento ti dirò, Luca, ho avuto qualche esitazione a credere che stesse riconoscendo la mia autorevolezza. Come hai detto tu, lì per lì ho frenato la lingua e ho affondato i denti, perché avrei voluto reagire. E invece mi sono controllato. E alla fine mi interrogo ancora se ho sbagliato a controllarmi oppure no. Vabbè. Direbbe Lotito, la contestazione hegeliana è affermazione. No, guarda. Allora, adesso Molinari, non dare della sale a mio figlio, buongiorno, perché mi arrabbio. Buongiorno. E tu vuoi partecipare anche tu dicendo qual è la contestazione più bella che hai subito in famiglia? Beh, devo dire, io ho quattro figli, quando si mettono assieme e cominciano a contestarmi tutti assieme, sono sconfitto in partenza. Tu non riesci a dividere e a governare? È quello che tento, ma sistematicamente fallisco, perché loro hanno capito che quando si mettono assieme io e mia moglie stiamo perdendo. No, ma io del resto non avevo dubbi che Molinari e la moglie fossero come Israele rispetto alle frontiere, cioè i figli sono più o meno come Hamas e Hezbollah. Sto sbagliando, ma più o meno è così, me lo immaginavo io. Ma io confido nel polso rigoroso e leggendario della signora Molinari, discutere. Condivido. Allora, invece parliamo di cose serie. Maurizio, ti abbiamo chiamato perché giornali, compreso il tuo, che affrontano queste rivelazioni della CIA dando un peso, non capiamo ancora bene la dimensione. Che idea ti sei fatto? Ma diciamo, a condurre l'inchiesta di Russiagate è Robert Mueller, che è stato per oltre 10 anni il capo dell'FBI. È l'uomo che ha guidato l'FBI dopo l'11 settembre, quindi sicuramente è uno degli investigatori più seri che esistono in America. È un repubblicano di Bush, tanto per intenderci. Lui che però sa dove mettere le mani, no? Quindi un po' dosa. E lui che cosa ha fatto? Il primo provvedimento l'ha fatto nei confronti di Manafort, che è l'ex capo della campagna elettorale di Trump. La contestazione che lui fa a Manafort è sulla gestione degli affari di Manafort prima della campagna elettorale. Manafort riceveva dei fondi per le sue società private da elementi russi o vicini alla Russia in maniera sospetta. Da lì il provvedimento nei suoi confronti. Il sospetto di Mueller è che nella stessa maniera con cui Manafort alimentava in maniera illecita le sue società, avrebbe potuto alimentare in maniera illecita la campagna del presidente. Questo è il sospetto. E infatti tu affidi il ritratto a Riotta e il retroscena a Mastroilli dicendo che l'obiettivo è la Casa Bianca. Ma può essere impicciato, diciamo con un orribile italicismo, il presidente degli Stati Uniti in uno scenario così? Cioè si può immaginare una destituzione? Al momento no. Nel senso che l'impeachment può essere votato solamente dalla Camera dei Rappresentanti a maggioranza semplice. Ci sono 435 deputati, in questo momento c'è una maggioranza fuori di Trump compatta. È però possibile che se lo scandalo delle Russiagate dovesse crescere, poiché in America si vota nel novembre del 2018 per il nuovo congresso, potrebbe uscire dalle urne una maggioranza diversa. Il punto in questo momento è solamente investigativo, poiché l'FBI, per averla coperta come cronista per lunghi anni, so come opera, è molto molto aggressiva. Quello che sta avvenendo secondo me in queste ore è che loro stanno interrogando ogni persona che ha qualsiasi tipo di rapporto con Manafort, la moglie, i figli, i cugini, i nipoti, quelli che hanno fatto affari con lui, sto parlando di centinaia di persone, a ognuno dei quali fanno sostanzialmente le stesse domande che hanno a che vedere con i rapporti fra Manafort e la Russia. È un'operazione massiccia quando l'FBI fa queste cose. Stanno scommettendo sul fatto di trovare degli elementi capaci di andare avanti, ovvero di incriminare qualcun altro, oppure di spingere Manafort a collaborare con la giustizia. Così opera la giustizia americana, va per gradi. Quindi è molto presto per parlare di impeachment nei confronti di Trump. Ma poiché questa persona ha lavorato per Trump, obiettivamente se io fossi l'avvocato della Casa Bianca inizierei a preoccuparmi. Ti chiedo l'ultima cosa, perché stiamo sfogliando praticamente il tuo giornale di oggi, che parte giustamente le questioni internazionali. Come giudichi la fuga a Bruxelles del governatore della Catalogna? Sinceramente è un elemento che rafforza la mia preoccupazione sull'Europa. L'Europa è diventato un posto dove vengono vicende imprevedibili, a distanza ravvicinata. Cioè nessuno aveva previsto la Brexit o la vittoria della destra estrema in Germania, ma neanche 2 o 3 settimane prima che questi fatti si fossero avvenuti. E la stessa cosa è la Catalogna, e la stessa cosa è la fuga del leader catalano. Cioè l'Europa è diventata un luogo dove avvengono eventi imprevedibili a brevissima distanza di tempo. E quindi significa che sta diventando un posto pericoloso. Per la prima volta instabile, no? L'equilibrio della guerra fredda aveva tenuto, l'equilibrio della Germania unita aveva tenuto, adesso vacilla. Oscar, sei d'accordo? Sì, no. Sono d'accordo, però credo che se gli stati, la cui Unione Europea è sempre più solo una unione di stati, e questo mi preoccupa, non sono capaci di vedere la loro necessaria evoluzione verso un'idea dell'Europa come Europa delle regioni, senza rompere i confini dei vecchi stati nazionali, ma aggiornando l'architettura interna, finiranno per rifiutare sempre di più, come si vede in tutti gli elettorati quando vengono chiamati alle urne, sia la naturale, per me giusta, devoluzione di poteri verso l'alto, che nella globalizzazione in cui noi abbiamo convenienza, io la penso così, è inevitabile la devoluzione del potere verso l'alto, che sono quelli della moneta, del commercio, degli standard economici da offrire e così via, e al contempo lo Stato però deve equilibrare con la devoluzione verso il basso, verso le regioni, maggiore autonomia, perché è lì che si fa la vera proiezione verso il mondo, e con economie in grandi, organizzate in grandi aree urbane incardinate su economie territoriali ad alto mix di specializzazione e di alta qualità. Ecco, stati nazionali che non riescono a capire questo, secondo me Rajoy ha avuto quello che voleva da 11 anni e l'ha avuto creando un danno più grave alla più forte regione economica del suo paese, e l'ha fatto con tutta la durezza del cinismo di chi su questo fa piazza pulita dei partiti intorno a sé, come c'è il Partito Socialista. Ecco, questa durezza cinica che utilizza strumenti dei vecchi stati nazionali, romantici, quelli dell'unità di sangue, d'altare, di razza, religione, che hanno prodotto centinaia di milioni di vittime, a me non piace. Quindi io, se dobbiamo vedere un'Europa che ritorna alle fughe che sono quelle risorgimentali, quelle di chi si ritiene patriota e che vuole fuggire dallo Spielberg, c'è qualcosa in questa Europa che sicuramente mi convince poco. Allora, ultima domanda, direttore, sfogliando il ne tuo giornale, che poi piacere. Per ah, sì, sì. Cioè, no, poter vedere le cose dopo aver fatto questa grande panoramica dall'immensamente grande, ti stringi con una delle tue penne più brillanti, Martini, che fa un ritratto godibilissimo di Ostia, al volto tra mafia e Nina Moric, PD defilato, primo test per la Raggi, avanza Casa Pound. Come mai hai scelto di fare un focus su un municipio di Roma che però è molto importante dal punto di vista simbolico? Perché la prima vera prova per i grillini vero, a Roma dopo vero. Tutti gli scandali, e perché la realtà è che è un anticipo dello scontro in Sicilia tra la destra e i grillini. L'Italia si sta allontanando dal centro-sinistra, noi possiamo essere contenti o meno, ma questo è un dato di fatto, e quindi la sfida è fra il centro-destra e i grillini, lo vedremo in Sicilia alla fine della settimana, iniziamo a vederlo subito da Ostia. Oscar, io torno vai. Un secondo con un dettaglio americano che mi ha molto colpito. Quando settimane fa, per la prima volta, Steve Bannon, allontanato ma durissimo personaggio la cui presa di posizione è necessario continuare a seguire per capire l'evoluzione di Trump, ha detto: "Bah, io scommetto che Trump non arriva alla fine, ma non per impeachment del Congresso, bensì per le disposizioni del 25° emendamento che affidano anche al suo esecutivo, allo suo stesso esecutivo, la possibilità di destituirlo". Questa roba in bocca a Bannon mi ha fatto fare un salto sulla sedia e ho detto: "Ma davvero è possibile questo? Cioè, i tre militari intorno a i tre generali intorno al presidente potrebbero davvero arrivare a questo, secondo Molinari, per come conosce gli Stati Uniti e il Partito Repubblicano?" Non c'è dubbio che in questo momento l'estrema speranza degli avversari di Trump è che Trump sia obbligato a fare un passo indietro perché spinto dai tre generali che ha attorno. Riferendosi a questo emendamento. Tuttavia Trump viene da New York, la politica è local, per capire le persone bisogna capire da dove vengono. A New York, se uno fa l'uomo d'affari, è un combattente di strada, è uno street fighter, altrimenti uno non sopravvive. Quindi la realtà vera è che l'anima profonda di Trump è quella del combattente fino alla fine, magari è un fighter, magari scorretto, magari eterodosso, però è un combattente. Il fatto che un combattente lasci volontariamente la Casa Bianca trasformandosi in quello che gli americani chiamano un loser, un perdente, sinceramente mi sembra improbabile. Non lo vedi, ok. Allora, grazie a Maurizio Molinari, torna con noi per raccontarci il retroscena del tuo bellissimo, utilissimo giornale, e noi abbiamo tanti messaggi, chiamate 800 24 00 24. Fulvio in attesa, devo leggere però un messaggio bello che fa onore a Fiamma da Palermo, che dice: "Più che lo stupore di Salvini mi fa rabbia la politica da siciliana di tanti politici siciliani che per quell'acqua e per quel treno non fanno niente". Bravo. Possiamo fare applauso, applauso. Altro che... Ecco, allora, Fulvio, vai, è il tuo momento. Buongiorno, volevo dire una cosa a proposito delle tuo figlio ti ha insultato stamattina, se no non puoi partecipare ancora, a questa discussione. Ancora non parlano bene, però ci stanno provando. Ah, ma sarà rapido, vedrà che l'evoluzione... No, in realtà c'ho due gemelle. Non disperare. Allora... Delle risorse che il governo, insomma, destina alle famiglie, no? Io con mia moglie lavoriamo tutti e due, abbiamo una casa di proprietà e un'altra casa in affitto. Insomma, quindi percepiamo un canone. L'unica risorsa che abbiamo sono 80 euro mensili a bambino per i primi 3 anni. Capirà che io con 80 euro mensili ci pago 2 settimane di pannolini per tutti e due. E poi un'altra cosa, lo sapete che i prematuri... Cioè, scusa, siccome questa cosa sui pannolini ha suscitato molto stupore, quanto stai spendendo di pannolini? Non ho mai fatto un calcolo perché se no dal sesto piano mi butto giù. Dai, ma ordine di grandezza, con due più o meno... Oh. Guardi, sta sui 250-300 euro al mese. Mamma mia, io per fortuna ho rimosso. La cosa più importante è che i prematuri hanno diritto per i primi 3 anni alle visite gratis. Guarda caso, ogni volta abbiamo cercato di fare una visita gratis ai nostri bambini, non siamo mai rientrati nei tempi, per cui abbiamo dovuto affrontare le spese anche delle visite. Questo per farle capire il livello di intelligenza di chi ci governa, perché io come persona, uomo medio, no, ignorante, avrei comunque detto sì, i prematuri hanno diritto alle visite gratis, però facciamoli scavalcare la visita. Invece qui in Italia le visite vengono la lista viene scavalcata per conoscenze e altre cose per molto, molto più gravi. Quindi non riesce a farla, vuol dire tecnicamente questo? Un sacco di soldi, fortunatamente mia moglie ha un percentuale, una parte gli viene rimborsata, perché insomma, e quindi alla fine non è stato un bagno di sangue. Allora vorrei dire a questi politici che ci governano: iniziate a fare come il Movimento 5 Stelle, che rinuncia a una parte del proprio compenso per destinarle a cause forse pure più nobili, tipo aiutare le piccole imprese che non hanno mai ottenuto finanziamenti dalla banca se non hanno garanzie e controgaranzie. Poi si parla tanto di us soli e di Italia che è un paese di vecchi, ma alla fine se non ci sono politiche che incentivano le famiglie anche a monoreddito ad avere dei figli, vado a vedere quante famiglie non decidono di non avere un figlio perché non se lo possono permettere. Per carità. Questa è l'Italia. Allora, grazie a Fulvio. Messaggio a cui devo ridare una risposta netta per quel che mi riguarda. Ci aiutate a votare no. Cioè, nel senso, noi vi diamo tutte le idee, tutte le informazioni, tutte le opinioni, ma non siamo qui per fare messaggi di propaganda. Anzi, se riusciamo a scombinare le carte, a mettere un dubbio, noi siamo più contenti di dare una certezza. Poi c'è la solita invocazione Oscar candidati, ma anch'io voglio, purtroppo lo perderei. No, possiamo, ma assolutamente candidare. No, ma piuttosto io devo dare una risposta ai tanti ascoltatori che continuano a mandare il famoso antirenzismo di Giannino. Giannino critica provvedimenti. Non so cosa dirvi, siccome ha governato, governa da 4 anni sta maggioranza, sì. E però era lo stesso tipo di accuse, vi faccio riflettere, che altri ascoltatori mi davano, del traditore addirittura, perché ero anti-berlusconiano prima, e così via. È la solita solfa, cioè voi scambiate il fatto di parlare di misure su cui capisco che altri che le sostengono sono d'accordo, io le critico, ma parlo di misure. È chiaro che si parla delle misure adottate dai governi in essere, e quando sarà il prossimo vedremo, però datemi atto, lo facevo con gli altre prima, non è che cambia, come sui 100 milioni del nostro ascoltatore, che è l'aumento, diciamo, di incentivi alle famiglie con questa legge di bilancio. Io devo dirvi la verità, vedo che la stessa cifra del nuovo incentivo presente anche quest'anno in legge di bilancio, seppur per una scuola diversa, con le fondazioni bancarie. Allora, ai miei occhi, tra le famiglie e le fondazioni bancarie, a cui ogni anno diamo un aiutino, bene, io credo che la priorità più importante sui piatti della bilancia siano le famiglie e non le fondazioni bancarie. Per la politica non è così, perché le fondazioni bancarie bisogna tenersi strette in CDP, perché sennò poi protestano, perché il governo gli ha fatto spendere più di 500 milioni in Atlante, il grande strumento salvifico che doveva salvare le banche italiane, e Atlante ha sbattuto il muso e i soldi delle fondazioni e delle banche che ci avevano messo 4 miliardi sono sfumati. Ecco, quindi come vedete, ma non è mica questione di criticare Renzi, e sono le misure concrete che non ci convincono, quelle che non ci convincono, tante altre, il fatto che abbiano messo il bonus per le assunzioni ci convince, meglio che ci sia piuttosto che no. Lo abbiamo detto anche oggi. Allora, Amedeo. Buongiorno. Buongiorno, non vedo da dove sei, presentati, raccontati. Io sono sulla superstrada in questo momento, attraversando la Toscana dalla costa verso Firenze, nei pressi di San Miniato. Bene, ottimo. Provincia di Pisa. Dici. Ah, Io sono in viva voce in diretta. Sì, sulla radio. È in diretta, quindi certo, si controlli chiamato, per così. Non è che siamo... No, mi hanno detto spegni la radio. Ah no, perché c'era il riverbero. Sì, sei okay. In diretta, vai. Ok, allora mi è capitato di sentire, parlavate di caminetti e del fumo che non bisogna fare per non affumicare questo paese, questo pianeta, è più o meno qualcosa del genere. Sì, è lo speciale della stampa sul massimo perfetto. Storico di inquinamento da CO2. Benissimo. Allora, secondo me bisognerebbe fermare prima di tutto le grandi industrie, parlando proprio in termini concreti. E poi? Mi permetta. Cioè. Lei sa che la Fiat produce la 500 in Polonia e la vende a Palermo. Lo so benissimo, stabilimento. Allora, se lei si affaccia, se lei, io prendo adesso la punta dell'iceberg, no, la cima dell'iceberg, lei si rende conto se si affaccia a Scandicci di vedere centinaia, se non migliaia, allora parlo di Barberini e Mucello a uno, di tir che trasportano tutta la mercanzia che per un interesse privato di 10 persone viene trasportata attraverso migliaia di chilometri quando potrebbe essere prodotta localmente. Le dico un numero, visto che parlate così bene di statistiche. In Sicilia ci sono almeno 1 milione di veicoli, se lei considera ci sono 5 milioni di abitanti. Non c'è un veicolo prodotto in Sicilia. Amedeo, io ti ringrazio per questa così, segnalazione, siamo molto contenti, però se l'idea è chilometro zero, no all'industria, non così, decrescita cioè, felice, io non credo che sia una cosa realizzabile. La logica di dove ci mettono gli impianti di produzione è quella della convenienza economica, non di 10 privati, sa, ma di comunità di centinaia di migliaia, in questo caso l'industria automotiva europea di milioni di persone. Cioè se non è così. Violano nessuna delle tante leggi che bisogna rispettare in Italia per fare impresa, per fare industria, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, io non capisco perché non dovrebbero esserci. O diciamo che creiamo un altro modello economico e torniamo a mangiare pane e cicoria, oppure questo è. No, niente semplificazioni che potranno sedurre chi però non ha la minima idea di come funziona l'economia. Mi dispiace, l'interesse privato di 10 persone e credere che per questo ci sono le autostrade intasate di tir che emettono quello che emettono in termini ovviamente di polveri, nitrati e ossidi, non è così. Cioè, non significa avere un'idea, lo dico con profondo rispetto, io non sto insultando nessuno, ingenuissima del mondo. Cioè, nel senso che purtroppo sottolineo 7 volte, se l'unico stabilimento Fiat che c'era in Sicilia è stato chiuso era perché non era competitivo, e sa perché? Uno dei componenti era proprio i costi della logistica dei trasporti, tanto per dirne una, e quindi ohimè bisogna attrezzarsi per rendersi competitivi rispetto agli altri paesi proprio per attirargli gli insediamenti. Questa resta la mia banale idea, che non è che vale come la sua, è che il mondo funziona così e il mondo si può cambiare, mica bisogna accettarlo, ma si può cambiare con un mix di attrattività da una parte e di norme che impediscano poi che magari si diano gli incentivi solo agli amici degli amici, come spesso è stata fatta per decenni la politica degli incentivi al sud. Quello è uno scandalo micidiale. Lì sì che entriamo nella logica degli amici degli amici, che purtroppo in Italia è lungi dall'essere sconfitta. Però la sua idea che le autostrade sono piene di vetture che realizziamo altrove e le dobbiamo trasportare in Sicilia perché non le vogliono produrre in Sicilia, magari fosse così, mettiamo a posto 10 persone e abbiamo risolto. Il problema è che non è così. Un po' di dizione a Luca Delese non ci sarebbe male, lo so, cerco di migliorarmi, dobbiamo tutti migliorarci, e noi chiamiamo Ivan da Reggio Emilia. Ivan, vai. No, stavo sentendo tra i figli, per i bambini, che non, in italiano fa più bambini, è vero, però invece di prendere dai soldi allo straniero 35 euro al giorno, perché noi abbiamo una famiglia italiana 35 euro per fare un figlio, non è un problema risolto, è vero. Oscar, vai, rispondi tu. Luca, guardate, scusate. Allora, questa cosa che vi mettono in capo, che ha convinto milioni di voi, no? Riflettiamo. Chi viene in Italia attraversando il mare, ce lo troviamo qua, no? Quindi non stiamo parlando di una scelta consapevole di famiglie di fronte alla quale voi fate... ecco, bisogna fare lo stesso per gli italiani, cioè come se nel nostro ordinamento decidiamo che alcuni milioni di italiani li mettiamo in albergo, come pensate che siano voi i centri, ma comunque può essere anche che siano alberghi quelli sequestrati dai prefetti dove sistemarli, e li mettiamo lì. Per gli italiani no, sono risorse meno per gli italiani. Però è la comparazione tra una situazione eccezionale a cui il nostro paese è esposto per via della sua... collocazione geografica, e questo non ci si può fare niente. Scusate, quello che avviene nel mondo, in aree del mondo da cui si convoglia questo fenomeno, che è biblico nelle proporzioni e dietro la quale c'è criminalità organizzata della peggior specie, sono i trafficanti di schiavi di carne umana, ecco. E la somma di queste tre cose fa un fenomeno di fronte al quale la Repubblica Italiana per 25 anni si è comportata quasi come voi volevate, cioè si è preoccupata solo della prima emergenza allo sbarco, di metterli in cose più lontani possibili dai vostri occhi, dopodiché di non organizzare un sistema integrato che da questa prima emergenza sia poi capace di discriminare chi diventa cittadino se ne ha i titoli, come lo si fa diventare cittadino, terzo il riconoscimento del diritto di asilo. Per 20 anni non ci siamo dati un sistema integrato di questo tipo, ed è anche per questo che alla fine conviviamo con un sistema dove solo un comune su 8, poco più di 1000, collabora in maniera cooperativa con il Viminale per il sistema SPRAR, cioè per individuare i posti più adatti perché nel territorio non si creano problemi con gli immigrati troppo concentrati rispetto ai residenti italiani, magari a quei residenti italiani che a basso reddito a quel punto iniziano a protestare. Allora, lo so che questa è una spiegazione complessa, mentre voi preferite dire buttiamoli a mare, marciscano e crepino, e gli stessi soldi dateli a mio figlio, però è una formuletta che mischia cose che non appartengono allo stesso ordine di problemi. Se voi pensate di tirarci fuori dal mondo sparando e mitragliando, io che pure sono per l'immigrazione controllata, che da anni mi batto per sceglierli anche per titolo di studio, come ha fatto l'Australia, che è stata durissima all'inizio contro i clandestini che arrivavano, detto questo, io non posso però, pur volendo, credendo in un mondo dove non c'è spazio per tutti e noi dobbiamo selezionare, però io volevo un paese capace di affrontare questo problema in maniera ordinata nel tempo. Avremmo impedito che milioni di voi pensassero che sono soldi sottratti ai vostri figli. I soldi per i nostri figli, che c'è allo Stato, sono molto pochi rispetto a quelli che si prende, questo resta verissimo e io sono il primo a dirlo con lei, ma il punto non è ammazziamo gli immigrati perché daranno più soldi ai nostri figli. Primo, non ve li hanno dati prima e non ve li darebbero neanche dopo. Secondo, sono due fenomeni diversi. Non so come la pensi tu, Luca. Lo trovo straordinario. Un ascoltatore, anzi interattore, ci scrive: un pannolino costa mediamente 0,30 centesimi, e allora oggi chiudiamola così con un grande messaggio: più pannolini per tutti, e i cani gatti si vedono domani.